passione africana. Una tappa obbligatoria di questo viaggio attraverso l'Africa occidentale passa per Elmina, letteralmente la miniera. Questo è un forte, oggi una cittadina di pescatori. Ci sono migliaia di barche in una giornata carica di pioggia in attesa di uscire per la pesca. Ma soprattutto c'è appunto un forte che rappresenta simbolicamente ma anche storicamente il punto d'incontro tra la cultura europea e quella africana. Elmina infatti fu il primo forte portoghese in Africa occidentale. Fu il risultato di un percorso progressivo che dalla fine del 1400 vide i portoghesi spingere in avanti la linea dell'esplorazione, quella che li avrebbe portati poi fino all'attuale Capo di Buona Speranza, fino a doppiare il continente e a risalire attraverso l'Oceano Indiano in direzione dell'India, appunto. Già nel 1472 un comandante portoghese di nome Gomes gettò l'ancora nell'estuario del fiume Pra e dove, per la prima volta, fu ottenuto dell'oro per mezzo di baratto. All'inizio i bianchi non sapevano con quali merci scambiare l'oro. Sapevano che i capi locali erano interessati ai cavalli, lo avevano sperimentato più a nord, lungo le coste dell'attuale Mauritania e del Senegal in particolare. Qui però il clima è molto diverso, l'umidità tropicale uccideva gli animali molto semplicemente, quindi gli stessi capi africani si resero conto che non era una merce interessante per loro. I portoghesi scoprirono presto che c'era un articolo africano che gli Akan avrebbero accettato senza riserve in cambio appunto dell'oro. Si trattava di una merce largamente disponibile, reperibile a non più di 800 km di distanza a est lungo la costa. Erano gli schiavi. La storia di Elmina è legata all'esplorazione, ma si spalanca quasi immediatamente su quella della schiavitù. All'inizio i portoghesi compravano esseri umani sulla costa tra Togo e Camerun e li rivendevano agli Ashanti, che avevano bisogno di braccia in cambio di oro, a un ritmo di circa 500-600 anime l'anno. Tutto cambiò con l'esplosione delle colonie americane. Dal 1710 e per i successivi 90 anni, la media fu di 62.000 schiavi l'anno. Un'impennata che, ironicamente, coincise con la crescita dei consumi di zucchero. I manufatti europei venivano scambiati con gli schiavi in Africa, gli schiavi con lo zucchero in Brasile e lo zucchero, così dolce, veniva venduto in contanti sui mercati del vecchio continente. And to the final door, the door of no return. So we have these two sections here as the female slave dungeon. Elmina fu solo il primo tassello di un sistema di 37 forti costruiti sulla Costa d'Oro. Furono posti commerciali, destinazione d'esilio, depositi di merci e di uomini, fortezze da espugnare e rivendere nel mercato delle potenze europee. Infine, i forti divennero le porte del non ritorno per milioni di africani trascinati in catene nelle colonie d'oltreatlantico. Secondo Paul Lovejoy, uno dei massimi specialisti mondiali della materia, gli schiavi partiti dall'Africa furono 11.860.000 tra il 1451 e il 1870. Quasi 2 milioni tra loro morì durante il viaggio. Oggi il sistema dei forti del Ghana è una destinazione turistica molto popolare, soprattutto tra gli afroamericani, che compiono un viaggio nella memoria. Un viaggio che recentemente ha compiuto anche il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Quando sono quasi al confine con il Togo, raggiungo sul fiume Volta una missione creata 25 anni fa dall'iniziativa di un comboniano di Bergamo, padre Riccardo Novati. Scuole elementari per i più piccoli, scuole tecniche per i ragazzi e un centro sanitario.